dobbiamo dare valore ai presupposti più di quanto non facciamo. Il vocabolario della lingua italiana è edito da Giovanni Treccani sotto la voce presupposto cita ciò che si presuppone o si è presupposto, in particolare ciò che si deve ammettere come precedente ad altro e come una condizione, ciò che è posto a fondamento di un ragionamento, di una argomentazione. In seguito cita alcuni esempi tratti dal nostro modo di parlare. La conoscenza come presupposto all'azione. Non sono ben chiari i presupposti della sua teoria. Partire da un presupposto giusto o sbagliato. Aggiungendo in seguito anche condizione preliminare, premessa in genere. In conclusione, il presupposto è la condizione, cosciente e incosciente, di ogni ragionamento e di tutto ciò che facciamo. Quelle inconsce spesso sono conosciute o in parte comprese solo da chi svolge il mestiere di psicologo o psicoterapeuta, cioè chi indaga le attività mentali dell'uomo. Perciò non fanno parte della nostra ricerca. A noi spetta comprendere i presupposti che ci rendono in grado di fare certi ragionamenti e svolgere certe attività. Se vi sono ragioni oscure e nascoste alla nostra conoscenza, vi sono però anche delle ragioni che noi possiamo conoscere. E di queste che desidero considerare. Secondo la scrittura, non tutto è automatico o, come diremmo oggi, non tutto è robotizzato. Vi sono benedizioni che Dio dona a tutti gli esseri umani come il sole e la pioggia, ma vi sono molte benedizioni condizionanti col testamento e da certi presupposti. Quando Gesù disse: «Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli». 5:20. Non garantiva l'entrata nel regno di Dio a tutti, ma solo a coloro che non avevano il presupposto di essere legalisti e formalmente religiosi. Alcune domande possono aiutarci a comprendere i presupposti per ottenere certe benedizioni di Dio. Come mai gli uomini non hanno tutti la stessa fede, lo stesso zelo, lo stesso amore, la stessa gratitudine, nonostante il sole splenda su ciascuno di loro? Tutti i cristiani hanno ricevuto uno spirito di amore, di forza e di autocontrollo mediante lo Spirito Santo. Perché alcuni onorano Dio e altri lo disonorano? Perché non sono onesti né sinceri? Non è vero, perché anch'io mi ritengo onesto e sincero, ma non possiedo ciò che hanno altri. A volte può essere perché Dio distribuisce i doni come vuole, ma altre perché non conosco le ragioni dei presupposti che li rendono in grado di avere quello che hanno. Il re Davide, per esempio, era un uomo secondo il cuore di Dio non perché era perfetto, ma perché era sincero, umile, leale e onesto. Un presupposto, questo, che rende gradito ogni uomo davanti a Dio. Molte persone cercano Dio ma non lo trovano. Subito si pensa che non lo cerchino con tutto il cuore. Ma questa non è la sola ragione. Spesse volte si cerca Dio in un modo sbagliato. Un presupposto, questo, che condiziona tutta la ricerca. Come se io cercassi un mio libro, che non trovo, nel frigorifero. Non lo troverò mai. Così chi cerca Dio, se lo vuole trovare, deve conoscere Gesù Cristo. Quando Gesù disse: «Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio, se non il Padre, e nessuno conosce il Padre, se non il Figlio, e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo». Matteo 11:27 voleva far sapere che Dio, cioè il Padre, lo si può conoscere se prima si conosce il Figlio. Infatti, quando Filippo chiese di conoscere il Padre, Gesù rispose: «Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici: mostraci il Padre?» Giovanni 14:9. Se prendiamo sul serio le parole di Gesù, come possono conoscere il vero Dio coloro che non conoscono Gesù Cristo? Poiché il verbo conoscere ha il significato di avere avuto una esperienza totale con Cristo, coinvolgente al punto che non sei più la persona di prima, un'esperienza che si chiama nuova nascita, come possono sostenere le persone di conoscere Dio quando non sono diventati una nuova creatura per lo Spirito Santo? Quindi il presupposto per trovare Dio è conoscere Gesù Cristo, e il presupposto per conoscere Gesù Cristo è realizzare la nuova nascita. Ci sono persone che cercano disperatamente per tutta la loro vita di conoscere la verità. Chi ne conosce personalmente qualcuno non può che provare tenerezza e compassione. Se si potesse e se fosse un oggetto si sarebbe tentati di dargliela. Subito sorge una domanda. Perché non arrivano a trovarla? Come mai Dio rimane insensibile alla loro ricerca? Gesù ne ha dato la risposta. Se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Giovanni 7:17. Perciò, chi desidera conoscere la volontà di Dio, che è la verità, deve prima avere il desiderio di farla. Il Dio vivo e vero non soddisfa la curiosità di coloro che sono solo desiderosi di sapere. Perché Lui non ha bisogno di essere attorniato da curiosi, ma da servitori. Mi ha fatto del bene leggere il famoso episodio, dove si narra che il re Salomone chiese sapienza a Dio. E, interessante, notare la seguente risposta di Dio. Poiché questa era la cosa che avevi in cuore, e non mi hai chiesto né ricchezze, né beni, né gloria, né la vita dei tuoi nemici, e neppure hai chiesto una lunga vita, ma hai chiesto per te sapienza e intelligenza per poter governare il mio popolo sul quale ti ho costituito re, sapienza e intelligenza ti sono concesse. 2 Re 1:11-12. Perciò a chi cerca la verità, sarà concessa, se una volta conosciuta la si mette in pratica. Questo aspetto non pone degli interrogativi. Se Dio ti nasconde certe verità, non sarà forse perché la rivelazione di esse per te rimarrebbe solo un accumulo di nozioni puramente intellettuali? Esamina i tuoi presupposti quando ti metti in preghiera davanti a Dio. Vi sono persone che ardentemente desiderano essere discepoli di Cristo. Li vedi sempre affaccendati, superattivi, testimoniare di Lui, eppure non diventano tali. Si comprende che qualcosa non torna e non se ne capisce la ragione. Inoltre Gesù ha incoraggiato tutti ad essere Suoi discepoli, perché allora sono pochi coloro che lo diventano. La risposta è molto semplice, perché mancano i giusti presupposti, che Gesù ha definiti con queste parole. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. Luca 14:26-27. La nuova nascita è un miracolo compiuto da Dio nella vita di un'anima che si arrende a Cristo. Diventare seguace di Cristo, invece, è possibile solo mediante un atto di volontà. Figli di Dio si diventa una volta per sempre. Seguaci si diventa mediante una scelta giornaliera per tutta la vita. Questa è la ragione per la quale sono in numero maggiore i figli di Dio rispetto ai suoi seguaci. Perciò non è sufficiente avere il desiderio di voler essere dei discepoli di Cristo, perché un desiderio buono e giusto può scaturire da qualsiasi animo religioso. Ma quando si tratta di fare una scelta giornaliera tra Cristo e i propri affetti familiari, quando la scelta è tra la tua vita e quella della testimonianza di Cristo, quando devi scegliere tra la sofferenza a causa di Cristo e il benessere proveniente da un silenzio o da un compromesso, allora ecco che spiccano i desideri infantili, senza contenuto pratico. Essere discepoli di Gesù non significa essere fedeli alla propria religione, perché Gesù non ha mai ordinato di essere fedeli ai propri schemi religiosi, ma così disse ai giudei che avevano creduto in Lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Giovanni 8:31. Dimorare nella parola di Cristo significa compiere ogni giorno la sua volontà, la quale è scritta nella Bibbia. Altro non c'è, è da aggiungere. È incredibile come la gente continui a seguire le proprie convinzioni, anche se Gesù ha detto che valgono i fatti e non le proprie opinioni, ma evidentemente il presupposto per poter credere in Gesù è l'avere più fiducia in Lui che nei nostri schemi mentali. Ed è vero. In effetti, quando Eva prese il frutto proibito, ebbe più fiducia nel serpente e in quello che riteneva buono, piacevole e desiderabile, che in quello che aveva detto Dio. Cristo aveva detto che sarebbero morti se avessero mangiato del frutto proibito, mentre il serpente disse che sarebbero diventati come Dio. I fatti dimostrarono che Cristo aveva detto giusto, ma si continua a dubitare della sua parola. Essere discepoli di Cristo vuol dire credere ciecamente alle sue parole, dato che nessuno fino ad oggi è stato in grado di dimostrare che abbia detto il falso. Tu lo hai forse trovato bugiardo? Io no. Anche la preghiera per molti credenti arriva a essere una ragione di apprensione, perché si prega. Si prega, ma le situazioni non cambiano, l'aiuto non arriva, il buio non si dissipa. Per essere esauditi, occorrono anche in questo caso dei presupposti, non sono sufficienti il nostro dolore, le nostre sincere parole. Purtroppo, anche in questo delicato atteggiamento non sono sufficienti. Forse è meglio dire meno male, perché se Dio esaudisse tutte le nostre richieste saremmo come i bambini che ottengono tutti i loro capricci. Anche per ottenere esaudimento nelle preghiere vi sono dei presupposti. Gesù ne ha citati fondamentalmente due. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Giovanni 15, 7. La prima condizione, comune per altre verità, è l'osservanza delle sue parole, le quali, a loro volta, devono essere quelle che ci inducono a pregare nel modo giusto. Cosa molto difficile, perché anche Giacomo ha dovuto scrivere: voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Giacomo 3. 3. Chi di noi segue la regola dettata da Gesù nella preghiera modello del Padre nostro? Dove, di 7 richieste, le prime 3 sono rivolte a Dio. Se si avessero questi presupposti, le preghiere della sposa di Cristo non resterebbero inascoltate. Molto probabilmente la nostra umana e più impellente necessità è il perdono. Tutti sbagliamo in molti modi e in molte maniere, perciò abbiamo bisogno del perdono di Dio. Non mi riferisco al perdono totale già ottenuto mediante la fede in Gesù, perché sta scritto che Dio ha riconciliato a sé, per mezzo di Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Colossesi 1:20. Ma mi riferisco a quel perdono di Dio, di non farci portare le conseguenze dei nostri errori. Noi ne abbiamo disperatamente bisogno. Anche in questo caso vi sono dei presupposti, senza i quali non possiamo essere perdonati. Essi sono enunciati da Gesù nel Padre nostro. Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Matteo 6, 12-15. Quindi quando preghiamo Dio di perdonare i nostri debiti, ciò è possibile solo se noi abbiamo già perdonato il prossimo. Il che vuol dire che cercheremo meno, se è possibile meno, di non far portare a chi ci ha fatto dei torti le conseguenze dei propri errori. Questo aspetto rende molto più solenne e nobile la preghiera in merito ai peccati, andando molto oltre il concetto di perdono insito nella nostra cultura, formalmente religiosa. Si può perdonare ed essere in pace, perché non si ritiene più debitore nei nostri confronti il prossimo. Ma è possibile però covare ancora nel profondo del nostro cuore il desiderio di rivalsa, una speranza nascosta che chi ha compiuto il male almeno riceva la giusta retribuzione. Sentimento molto sottile che ho dovuto scoprire, muna o meglio, rivelatomi dallo Spirito Santo con un grande sforzo di onestà intellettuale. Dio ci riveli non solo ciò che è peccato, ma anche i nostri presupposti sbagliati. Febbraio 2013, Ellero,